Mrs. Tulliver, come si è veduto, non era priva di influenza sul marito. Nessuna donna ne è priva e può sempre piegarlo a far ciò che la desidera, oppure esattamente il contrario. E tra i molteplici impulsi che minacciavano di spingere Mr. Tulliver ad una causa, i monotoni tentativi che faceva Mrs. Tulliver per dissuaderlo avevano senza dubbio la loro parte di peso. Potevano comunque essere paragonati a quella proverbiale piuma che ha il privilegio e lo svantaggio di fiaccare il dorso del cammello. Quantunque, in un giudizio rigorosamente imparziale, la colpa dovrebbe piuttosto ricadere su quel precedente carico di piume, da cui il dorso è stato ormai posto a così immediato repentaglio, che la più innocente piuma non può esservi aggiunta senza un guaio. Non già che le deboli esortazioni di Mr. Tulliver potessero, per virtù personale di lei, avere il peso di quella piuma. Ma tutte le volte che la ritirava al marito, il suo supino consenso, questi vedeva in lei la rappresentante della famiglia Dodson. E tra i principi direttivi di Mr. Tulliver c'era quello di far capire ai Dodson che essi non potevano esercitare alcun dominio su di lui. O più specificamente, che un Tulliver maschio contava molto di più che quattro Dodson femmine, anche se una di quelle era Mrs. Glegg. Ma nemmeno una diretta argomentazione contro la sua volontà di adire la giustizia da parte di quella tipica Dodson femmina valeva a rinfocolare tale volontà, quanto il semplice pensiero di Wakem, continuamente ravvivato dalla vista del troppo abile procuratore nei giorni di mercato. Wakem, per sua conoscenza, era, metaforicamente parlando, la base dell'irrigazione di Pivart. Lui aveva tentato di spingere Dix a fare opposizione e a intentar causa per via della diga, e senza discussione era stato lui a far perdere a Mr. Tulliver il processo per i diritti sulla strada e sul ponte. Sicché i suoi terreni erano diventati un pubblico passaggio per tutti i vagabondi che preferissero danneggiare una privata proprietà, anziché camminare da galantuomini sullo stradone. Tutti gli avvocati erano più o meno dei mascalzoni, ma la mascalzonaggine di Wakem era di tipo specialmente grave, perché si contrapponeva alla forma di diritto incorporata negli interessi e nelle opinioni di Mr. Tulliver. E per colmo di amarezza, il conculcato mugnaio era stato costretto proprio di recente, per prendere a prestito le 500 sterline, a conchiudere in proprio un piccolo affare nello studio di Wakem. Quell'uomo dal naso aquilino, infido, freddo come un cetriolo e con quell'aria sempre così sicura del proprio gioco, e più seccante ancora, era che l'avvocato Gore non gli somigliasse di più e fosse invece un uomo calvo, tondo, dai modi gentili e dalle mani grassocce. Un gallo da combattimento su cui sarebbe stato pazzesco di scommettere contro Wakem. Gore era un tipo scaltro che non peccava certo per eccesso di scrupoli, ma con tutto quel suo ammiccardocchi, per quanto significativo, non riusciva certo a vedere attraverso i muri e quantunque Mr. Tulliver avesse fede nel principio che l'acqua è l'acqua e che dunque, nella fattispecie, Pivart non avesse alcun rampino a cui attaccarsi in quell'affare dell'irrigazione, tuttavia gli rimaneva l'incomodo sospetto che su queste conclusioni, razionalmente inconfutabili, Wakem avesse più leggi da citare contro di quanto Gore ne avesse da citare pro. Ma allora, se si faceva la causa, sarebbe stata per Mr. Tulliver una vera fortuna l'aver dalla sua il consigliere Wilde, anziché trovarsi contro quel meraviglioso campione, e la sua speranza di vedere un testimonio di Wakem confuso e ridotto a sudar freddo, come era successo una volta ad uno dei testimoni di Mr. Tulliver, era un'attrattiva di più che si aggiungeva all'amore della giustizia retributiva. Su questo intrigante argomento Mr. Tulliver ruminò parecchio durante le sue corse sul cavallo grigio, piegando spesso il capo da una parte o dall'altra a seconda delle alterne oscillazioni della bilancia. Ma il risultato probabile rimaneva pur sempre fuori di ogni previsione e poteva essere raggiunto solo attraverso molti fervidi ragionamenti, instancabili, instancabilmente ripetuti nell'ambiente domestico e sociale. Questa prima scena della lite, che consisteva nella narrazione del caso e nell'approfondimento delle vedute di Mr. Tulliver tra l'intera cerchia dei conoscenti, necessariamente portò via del tempo. E al principio di gennaio, quando Tom stava per tornare alla scuola, la relazione che il babbo faceva delle proprie ragioni contro Pivart s'era a malapena cresciuta di qualche nuovo paragrafo e di qualche indicazione speciale circa le misure che gli era deciso a prendere contro quello sconsigliato trasgressore, al principio che l'acqua è acqua. La ripetizione, come lo sfregamento, genera piuttosto calore che moto, e l'accaloramento di Mr. Tulliver era senza dubbio sempre più sensibile. E se non erano venute fuori nuove prove su alcun altro punto, c'era una prova recente che Pivart era un infognato fino al collo con Wakeham. «Babbo», disse Tom una sera verso la fine delle vacanze, «Zio Glegg dice che l'avvocato Wakeham sta per mandare suo figlio da Mr. Stelling. Allora non è vero quel che si diceva, che l'avrebbe mandato in Francia. Tu non hai nessuna voglia che io vada a scuola col figlio di Wakeham, è vero? Che me ne importa, ragazzo mio», disse Mr. Tulliver. «L'essenziale è che tu non impari niente di male da lui. Quel ragazzo è un povero deforme e nella faccia ha preso tutto dalla madre. Credo che del padre ci sia ben poco in lui. In ogni caso è segno che Wakeham ha un'alta opinione di Mr. Stelling se manda il figlio da lui, e Wakeham è uno che sa distinguere la farina dalla crusca». In cuor suo, Mr. Tulliver era piuttosto fiero che suo figlio avesse i medesimi privilegi che quello di Wakeham, ma Tom era tutt'altro che tranquillo su questo punto. Le cose sarebbero state più chiare se il figlio dell'avvocato non fosse stato deforme, perché in tal caso Tom avrebbe avuto la prospettiva di poterlo maltrattare con tutta quella libertà che proviene da un'alta sanzione morale. 3. Il nuovo compagno di scuola. Era una fredda, umida giornata di gennaio, quella in cui Tom rientrò in collegio, una giornata del tutto rispondente a questa dura fase del suo destino. Se egli non avesse portato in tasca un pezzo di zucchero candito e un bambolotto olandese per la piccola Laura, nemmeno il raggio di una promessa di gioia sarebbe venuto a ravvivare quella incombente tetraggine. Ma egli si godeva di fantasticare come Laura avrebbe proteso i labbruzzi e le graziose manine ai pezzetti di zucchero candito, e per dare più viva acutezza a questi piaceri dell'immaginazione, estrasse quel dolce, praticò un piccolo foro nell'involto e mordicchiò uno o due cristalli, i quali ebbero tale efficacia consolatrice tra la prigionia e gli odori viziati del mantice della carrozza, che lungo il tragitto egli ripeté più di una volta l'esperimento. «Bene, Tulliver, siamo lieti di rivedervi», disse cordialmente Mr. Stelling. «Toglietevi il mantello e venite nello studio fino all'ora di pranzo. Lì troverete un bel fuoco ed un nuovo compagno». Tom provò una sgradevole ansietà mentre si toglieva la sciarpa di lana e gli altri indumenti. Aveva già veduto Philip Wakeham a St. Oaks, ma sempre ne aveva distolto lo sguardo più in fretta che poteva. Avere per compagno un ragazzo deforme gli sarebbe spiaciuto quando anche Philip non fosse stato il figlio di un uomo cattivo. E Tom non riusciva a capire come il figlio di un uomo cattivo potesse essere tanto buono. Suo padre sì che era un uomo buono ed egli si sentiva pronto a battersi contro chiunque avesse affermato il contrario. Era in uno stato di imbarazzo misto di diffidenza mentre seguiva Mr. Stelling nello studio. «Qui c'è un nuovo compagno a cui dovete stringere la mano, Mr. Tulliver», disse quel gentiluomo entrando nello studio. «Mr. Philip Wakeham. Lascerò che pensiate voi a far conoscenza. Qualcosa sapete già l'uno dell'altro, credo, perché abitate vicino». Tom ebbe un'aria confusa e goffa, mentre Philip si alzò guardandolo timidamente. Non si sentiva nessuna voglia di avanzare a stendergli la mano, e una presentazione così sommaria non l'aveva preparato a dirgli «Come state?». Saggiamente, Mr. Stelling si ritirò, chiudendo la porta dietro di sé. La ritrosia dei ragazzi si dissipa solo in assenza dei grandi. Philip era troppo fiero e, nello stesso tempo, troppo timido per farsi incontro a Tom. Pensava, o meglio sentiva, che Tom provava avversione a guardarlo. Quasi tutti, del resto, lo guardavano malvolentieri. E poi la deformità diventava più vistosa quando egli camminava. Così rimasero lì, senza stringersi la mano e senza neppure parlarsi, mentre Tom si avvicinava al fuoco a riscaldarsi, lanciando, tuttavia, di quando in quando, delle furtive occhiate verso Philip, che pareva disegnare sbadatamente degli oggetti qualunque su un pezzo di carta che aveva davanti a sé. Era tornato a sedersi e mentre disegnava stava pensando che cosa avrebbe potuto dire a Tom e tentando di superare la propria ripugnanza di fare il primo passo. Tom cominciò a guardare più spesso e più a lungo il viso di Philip, perché poteva guardarlo senza accorgersi della gobba. E poi realmente non era un brutto viso, per quanto d'aspetto assai vecchio, pensava Tom. Si domandava stupito quanti anni avesse Philip più di lui. Un anatomico o anche un semplice fisionomista avrebbe capito che la deformità della spina dorsale di Philip non era una gibbosità congenita, ma la conseguenza di un accidente infantile. Ma da Tom non c'era da aspettarsi alcuna dimestichezza con simili distinzioni. Per lui Philip era semplicemente un gobbo. Aveva la vaga idea che la deformità del figlio di Wakem stesse in qualche rapporto con la malizia dell'avvocato suo padre, della quale aveva inteso tanto spesso suo padre parlare e con così accesa eloquenza, e provava pure un certo terrore di lui. Terrore confessato solo a mezzo, come d'un compagno probabilmente dispettoso, di quelli che, non sapendo battersi, hanno una maliziosa maniera di nuocere con l'astuzia. C'era appunto un sarto gobbo nelle vicinanze dell'accademia di Mr. Jacobs. Costui aveva reputazione di carattere molto inamabile ed era perseguitatissimo dai ragazzi animati da spirito civico, esclusivamente a causa delle sue antipatiche qualità morali, sicché Tom non mancava di una base di fatto per le sue ipotesi. Certo, nessun volto poteva essere dissimile da quello turpe del sarto quanto questo melanconico viso di ragazzo. I capelli bruni, onde si era incorniciato, si increspavano e si inanellavano alle estremità, come quelli di una fanciulla, il che a Tom pareva veramente pietoso. Questo Wakem era un tipo pallido, veramente pietoso, meschino, evidentemente incapace di fare qualunque gioco degno di questo nome, però maneggiava la matita in modo invidiabile e stava evidentemente buttando giù uno schizzo dopo l'altro senza la minima difficoltà. Che cosa stava disegnando? Ora Tom si era del tutto riscaldato e cercava qualche cosa di nuovo da fare. Era certamente più piacevole avere un compagno, sia pur gobbo e malnato, che starsene da soli a guardare la pioggia dalla finestra dello studio, picchiando i piedi contro lo zoccolo del muro. Ogni giorno poteva succedere qualcosa, un litigio o altro, e Tom pensava che gli sarebbe abbastanza piaciuto dimostrare a Philip che avrebbe fatto meglio a non tentare neppure di giocargli i suoi tiri birboni. D'improvviso abbandonò il camino e andò a guardare il foglio di Philip. Ma questo è un asino con la sporta, e poi un cane spagnolo, e poi delle pernici tra il grano. Esclamò sentendosi lo scilinguagnolo completamente sciolto dalla sorpresa e dall'ammirazione. Per i miei bottoni mi piacerebbe di saper disegnare così. Devo impararlo questo semestre il disegno. Chissà se imparerò a fare dei cani e degli asini. Oh, potete farli benissimo senza studiare, disse Filipe. Io non ho mai studiato il disegno. Mai studiato? Disse Tom meravigliatissimo. Com'è che quando io faccio dei cani e dei cavalli le teste e le gambe non vogliono riuscirmi giuste, per quanto io sappia benissimo come dovrebbero essere? Io so fare delle case con ogni sorta di camini, camini che vanno su tutto lungo la parete e le finestre sui tetti e tutto, ma credo che riuscirei anche a fare dei cavalli e dei cani se mi ci mettessi sul serio. Soggiunse, immaginandosi che Filippo poteva erroneamente supporre che gli stava per dargliela vinta, se si mostrava troppo sincero nel confessare le proprie imperfette capacità. Oh, certo, disse Filippo, è molto facile, basta guardare bene le cose e poi disegnarle e ridisegnarle tante volte. Quel che vi riesce sbagliato alla prima, potete correggerlo alla seconda. Ah, ma proprio non vi hanno insegnato nulla? Disse Tom, cominciando a lasciarsi prendere dallo sconcertante sospetto che la schiena gibbosa di Philip potesse essere l'origine di straordinarie doti. Credevo che avreste frequentato la scuola per molto tempo. Ah, sì, disse Philip sorridendo, mi hanno insegnato il latino, il greco e la matematica e la composizione e simili cose. Oh, ma dico, non vi piacerà mica il latino per caso? Disse Tom abbassando confidenzialmente la voce. Proprio così, non me ne curo granché, disse Philip. Ma forse non siete ancora giunto al proprie quae maribus, disse Tom, tentennando il capo come ad intendere che era quello il ponte dell'asino e che si faceva presto a parlare finché non si fosse giunti a quel punto. Philip provò un po' di amara compiacenza alla promettente stupidità di quel ragazzo ben fatto e dall'aspetto così sveglio, ma reso delicato dalla sua estrema sensibilità, non meno che dal desiderio di riuscire cattivante, contenne la sua voglia di ridere e disse tranquillamente: «La grammatica l'ho finita, non la studio più». «Allora non faremo le stesse lezioni?» disse Tom con un senso di contrarietà. «No». Ma credo che vi potrò aiutare, sarò lieto di aiutarvi per quanto posso. Tom non disse vi ringrazio perché era completamente assorto nel pensiero che il figlio di Wakem non pareva poi un ragazzo così dispettoso come si sarebbe potuto aspettare. Sentite, disse poco dopo, volete bene a vostro padre? Certo, disse Filippa arrossendo molto, non volete bene voi al vostro? Oh sì, volevo soltanto sapere. Disse Tom, alquanto vergognoso di se stesso al vedere che Philip arrossiva e pareva a disagio. Trovava molto difficile di prendere un contegno giusto verso il figlio dell'avvocato Wakem, e gli venne in mente che se Philip non avesse voluto bene al padre, questo l'avrebbe un po' aiutato a sciogliere la propria perplessità. E adesso vi metterete a studiare il disegno? Disse, tanto per cambiare d'argomento. No, disse Philip, mio padre desidera che ora io dedichi tutto il mio tempo ad altre cose. Come? Il latino, Euclide e compagnia? Disse Tom. Eh sì, disse Philip, che, smesso di maneggiare la matita, se ne stava con la testa appoggiata su una mano, mentre Tom, puntato sui gomiti e proteso, veniva guardando con crescente meraviglia il cane e l'asino. E non vi dispiace? Disse Tom con viva curiosità. Ma no, sono contento di imparare quello che tutti gli altri sanno. Poi più tardi potrò studiare quel che mi piace. Non riesco a capire perché tutti debbano imparare il latino, disse Tom. Non serve a nulla. Oh, fa parte dell'educazione di un gentiluomo, disse Philip. Tutti i gentiluomini studiano le stesse cose. Come? Credete che Sir John Craig, il padrone dei cani da lepre, sappia il latino? Disse Tom, il quale aveva tante volte pensato che gli sarebbe piaciuto di somigliare a Sir John Craik. Certo che l'ha imparato, da ragazzo, disse Philip, ma forse l'avrà dimenticato. Bene, potrò fare così anch'io allora, disse Tom, non senza qualche intenzione epigrammatica, ma seriamente soddisfatto all'idea che per quanto concerneva il latino non ci fossero ostacoli alla sua somiglianza con Sir John Craik. Soltanto finché si va a scuola, si è costretti a ricordarsene, altrimenti tocca di studiare tante mai righe dell'oratore. Mr. Stelling è molto esigente, lo sapete, è capace di farvi ricominciare 10 volte se dite nam invece che jam. Non vi lascerà passare neppure lo sbaglio di una lettera, ve lo dico io. Oh, non me ne fa niente, disse Philip, non riuscendo a trattenere il riso. Io mi ricordo facilmente delle cose. E poi ci sono parecchie materie che mi piacciono molto. Mi piace molto la storia greca e tutto quello che riguarda i greci. Sarei stato contento d'essere un greco ed aver combattuto contro i persiani, e poi tornare a casa a scrivere delle tragedie o d'essere ascoltato da tutti per la mia saggezza, come Socrate, e fare una morte gloriosa. Philip, ve ne accorgete, non andava esente da un certo desiderio di impressionare quel bel costrutto barbaro con la sensazione della propria superiorità mentale. Come? Erano dei grandi guerrieri, i greci? Disse Tom, a cui si apriva d'improvviso una prospettiva in quella direzione. C'è qualche cosa nella storia greca come Davide e Golia e Sansone? Sono gli unici pezzi che mi piacciono nella storia degli ebrei. Oh, ci sono delle bellissime storie di questo genere sui greci, sugli eroi dei tempi antichi che abbattevano le bestie feroci proprio come Sansone. E nell'Odissea, che è un magnifico poema, c'è un gigante più meraviglioso di Golia. Polifemo, che aveva un occhio solo in mezzo alla fronte, e Ulisse, un piccolo individuo ma molto saggio e astuto, prese un tronco di pino acceso e glielo cacciò dentro l'occhio e lo fece mugghiare come 1.000 tori. Oh, che buffo! Disse Tom balzando giù dalla tavola e saltellando prima su un piede e poi su un altro. Ditemi, potete raccontarmele tutte quelle storie? Perché io, sapete, non lo studierò il greco. O credete di sì? Soggiunse smettendo di saltellare nella subitanea apprensione che potesse capitargli il contrario. Tutti i gentiluomini debbono studiare il greco? Credete che Mr. Stelling me lo farà cominciare? No. Credo di no, molto probabilmente, disse Philip. Ma potrete leggere queste storie anche senza sapere il greco, io le ho in inglese. Sì, ma a me non piace leggere. Preferirei che me la raccontaste voi, ma solo quelle di battaglie, sapete? Mia sorella Maggie vuol sempre raccontarmi delle storie, ma sono così stupide. Le storie delle ragazze sono sempre stupide. Sapete raccontarmi tante belle storie di guerra? Oh, sì, disse Philip, una quantità, oltre a quelle greche. Posso raccontarvene di Riccardo Cuor di Leone e di Saladino e di William Wallace e Robert Bruce e James Douglas. Ne so da non più finire. Voi siete più vecchio di me, ne vero? Disse Tom. Ma quanti anni avete voi? Io 15. Oh, io sto soltanto per entrare nei 14, disse Tom. Ma vincevo tutti i compagni alla scuola di Jacobs, quella dove ero prima di venir qui. Li batto tutti al gioco della palla e nella gara d'arrampicarsi. E vorrei che Mr. Stelling ci lasciasse andare a pescare, vi farei vedere io come si pesca. Voi ci andreste alla pesca, non è vero? C'è solo da starsene lì, seduti e tranquilli, sapete? Tom, a sua volta, voleva far piegare la bilancia in proprio favore. Non si credesse quel gobbetto che la sua familiarità con le storie di guerra potesse metterlo allo stesso livello di un eroe delle battaglie attuali come era Tom. Philip trasalì, colpito da questa allusione alla sua incapacità di esercizi attivi, e rispose quasi aspramente: Non posso soffrire la pesca. Mi pare che la gente abbia un'aria ben scema a starsene lì seduta per ore e ore a guardare una lenza, oppure a buttarla e poi di nuovo buttarla senza mai prendere nulla. Sì, ma non direte che hanno l'aria scema quando tirano su un grosso luccio, posso assicurarvelo io, disse Tom, che di grosso non aveva mai preso niente in vita sua. Ma offeso nel suo zelo per l'onore degli esercizi attivi, si sentiva l'immaginazione esaltata. Il figlio di Wakem, era ben chiaro, aveva i suoi lati antipatici e doveva essere tenuto debitamente a freno. Fortunatamente per la buona armonia di questo primo colloquio, essi furono subito chiamati a pranzo e Philip non ebbe campo di sviluppare ulteriormente le sue vedute eterodosse sul tema della pesca, ma Tom si disse che questo era proprio ciò che doveva aspettarsi da un gobbo. 4. La giovane idea. Le stesse alternative di impressioni che si erano prodotte nel primo dialogo tra Tom e Philip continuavano a caratterizzare i rapporti tra i due ragazzi anche dopo parecchie settimane che erano compagni di scuola. Tom non riusciva a liberarsi completamente dall'idea che Philip, come figlio di un filibustiere, fosse il suo naturale nemico, né giunse mai a superare del tutto la propria ripugnanza per la deformità di Philip. Era un ragazzo che si attaccava tenacemente alle impressioni ricevute, come in tutti gli individui in cui la semplice perfezione prevale sui pensieri e sulle emozioni. Il mondo esterno rimaneva per lui quale era apparso al primo aspetto, e tuttavia era impossibile non amare la compagnia di Philip quando egli era di buon umore. Sapeva così bene dare un aiuto in quegli esercizi latini che Tom considerava come sciarade che potevano sciogliersi solo per un colpo di fortuna. E poi sapeva raccontare delle storie di guerra talmente meravigliose. Su Hall, del Wind, per esempio, e su altri eroi specialmente prediletti da Tom, in quanto menavano tutti intorno dei colpi formidabili. Di Saladino, invece, che con la sua scimitarra poteva fendere in due un cuscino e gli faceva poca stima, che bisogno aveva di prendersela coi cuscini? Era una stupida storia che egli non aveva nessuna voglia di sentirsi ripetere. Ma quando Robert Bruce, sul puledro nero, si drizzava in arcione E sollevando la sua bella ascia d'arme spaccava con un sol fendente l'elmo e il capo del cavaliere troppo petulante a Bannockburn. Allora Tom sentiva tutta l'esaltazione della simpatia, e se si fosse trovata fra le mani una noce di cocco l'avrebbe subito spaccata con l'attizzatoio. Nei suoi momenti più felici, Philip portava Tom al colmo dell'entusiasmo, accrescendo il fracasso e lo strepito e la furia di ciascuna battaglia con tutta l'artiglieria di epiteti e di similitudini che aveva a propria disposizione. Ma non sempre era di buon umore, né in un momento felice. Quel leggero accento di acre suscettibilità, sfuggitogli durante il loro primo colloquio, era il sintomo di una pena spirituale sempre pronta a tornare, fatta in parte di irritabilità nervosa e in parte dell'amarezza di cuore indottagli dal senso della sua deformità. In questi accessi di suscettibilità, ogni sguardo gli pareva carico di insolente disprezzo o di malcelato disgusto, o quantomeno uno sguardo indifferente. E Philip si risentiva dell'indifferenza come un bimbo del sud si risente all'aria abbrividita di una primavera settentrionale. La balorda aria di protezione del povero Tom, quando uscivano fuori insieme, lo faceva a volte rivoltarsi con espressione affatto selvaggia contro il bene intenzionato ragazzo, e i suoi occhi, abitualmente melanconici e calmi, si accendevano di un lampo tutt'altro che gaio. Nessuna meraviglia che Tom conservasse i suoi sospetti contro il gobbo. Ma quella destrezza nel disegnare che Philip aveva imparato da solo era un altro legame fra di loro, perché Tom constatò con malcontento che il maestro di disegno non gli dava da fare dei cani e degli asini, ma dei ruscelli e dei ponti rustici, dei ruderi, e il tutto soffuso di una sfumatura generale di piombaggine nera che rappresentava semmai una natura piuttosto simile ad una stoffa di raso, e siccome in Tom il sentimento del pittoresco nel paesaggio era per il momento affatto latente, non c'era da sorprendersi che le opere di Mr. Goodrich gli sembrassero una forma d'arte senza interesse. Mr. Tulliver, avendo la vaga intenzione di mettere Tom in qualche affare che comportasse il disegno di piante topografiche e di mappe, s'era lamentato con Mr. Riley quando l'aveva veduto a Mudport, perché gli pareva che Tom non imparasse nulla di quel genere. Ragione per cui quel compiacente consigliere aveva suggerito che Tom doveva prendere lezioni di disegno. Mr. Tulliver non si preoccupasse di pagare qualcosa di più per il disegno, che Tom fosse diventato un abile disegnatore e poi non gli sarebbe mancata l'occasione di sfruttare la sua matita. Così fu stabilito che Tom prendesse delle lezioni di disegno. E quale maestro doveva scegliere Mr. Stelling se non Mr. Goodrich, che era considerato assolutamente il principe nella sua professione per un raggio di 20 miglia intorno a King's Lorton. A questo modo Tom imparò a fare una punta finissima alla sua matita e a rappresentare un paesaggio con vasta generalità. La qualcosa, senza dubbio, per la tendenza al dettaglio della sua mente ristretta, gli pareva estremamente sciocca. Tutto ciò, ricordatelo, succedeva in quei tempi di oscurantismo in cui non esistevano scuole di disegno, avanti che i maestri di scuola fossero tutti, senza eccezione, uomini di scrupolosa integrità e avanti che gli ecclesiastici fossero tutte persone di mente aperta e di varia cultura. Non è favola il dire che in quei giorni meno fortunati c'erano anche altri ecclesiastici, oltre a Mr. Stelling, forniti di cervello piccolo e di desideri grandi, gente i cui redditi, per una logica confusione alla quale la fortuna, donna e per di più cieca, va particolarmente soggetta. Erano proporzionati non già ai desideri, ma all'intelligenza, con la quale il reddito non ha manifestamente alcun rapporto intrinseco. Il problema che quei gentiluomini dovevano risolvere era di ristabilire le proporzioni tra i loro desideri e il loro reddito, e siccome i desideri non sono facili da far morire di inazione, così il metodo più semplice era quello di aumentare i redditi, e non c'era che una via per riuscirvi. Nessuno di quei mestieri modesti, nei quali la gente è costretta a fornire del buon lavoro a basso prezzo, era permesso ad un ecclesiastico. Che colpa avevano se l'unica loro risorsa era di far salire ad alti prezzi un lavoro molto mediocre? E in secondo luogo, perché attendersi da Mr. Stelling la coscienza che l'educazione era un delicato e difficile compito, più di quanto ci si attenda da un animale dotato dell'istinto di praticare delle buche nella roccia, delle ampie vedute sulla tecnica dello scavo? Le facoltà di Mr. Stelling erano state per tempo allenate a scavare delle buche in linea retta, ed altre facoltà egli non possedeva. Ma tra i coetanei di Tom, che i loro padri avevano affidati all'educazione di ecclesiastici per ritrovarseli poi, tempo dopo, ignoranti, ve ne erano parecchi, molto meno fortunati che Tom Tulliver. L'educazione era quasi completamente una questione di fortuna, anzi, in generale, di sfortuna, in quei giorni remoti. La condizione di spirito con cui si prende in mano una stecca da biliardo o un bossolo di dadi è ancora uno stato di tranquilla certezza in paragone con quella dei padri di una volta, tipo Mr. Tulliver, allorché sceglievano una scuola o un maestro per i loro figli. Uomini eccellenti che per tutta la loro vita si erano veduti costretti a scrivere sulla base di un improvvisato sistema fonetico e che, malgrado questa situazione sfavorevole, erano riusciti a far prosperare i loro affari, avendo ammassato abbastanza denaro per procurare ai loro figli un punto di partenza migliore di quello che si avevano avuto. Dovevano necessariamente fidarsi della fortuna per la coscienziosità e la competenza di un maestro di cui fosse capitata nelle loro mani la circolare promettente assai più di quanto essi avessero mai pensato di chiedere, non esclusa la restituzione della biancheria e delle forchette e del cucchiaio. Buon per essi se qualche ambizioso mercante di stoffa di loro conoscenza non aveva destinato il figlio alla carriera ecclesiastica. E se quel giovane gentiluomo, all'età di 24 anni, non aveva chiuso le sue dissipazioni universitarie con un matrimonio sconsigliato, che altrimenti quegli innocenti padri, desiderosi del meglio per le loro creature, non avevano che una via di scampo per sfuggire al figlio del mercante di stoffa, ed era quella di essere fondatori di una scuola di grammatica non ancora visitata dagli ispettori, dove due o tre ragazzi potessero avere tutti per sé i vantaggi di una grande topaia, insieme con quelli di un maestro sdentato, mezzo cieco e sordo, la cui erudita disattenzione e confusione mentale venisse da loro impinguata alla quota di 300 sterline a testa. Un perfetto letterato, senza dubbio, al tempo della sua prima nomina, ma ogni perfezione sotto il sole ha una ulteriore fase meno pregiata sul mercato. Tom Tulliver, dunque, paragonato con tanti altri ragazzi inglesi del suo tempo, che ebbero poi da arrabattarsi nella vita con alcuni barlumi di più o meno notevole istruzione e con una grossa dose di certamente notevole ignoranza, non era in fondo così sfortunato. Mr. Stelling era un individuo ben piantato e vigoroso. Aveva un portamento da gentiluomo, la convinzione che un ragazzo nell'età della crescita ha bisogno di una sufficiente porzione di carne e una certa gentilezza d'animo, per cui si rallegrava di vedere che Tom aveva bella cera e gustava il suo pranzo. Ma non era certo un tipo di coscienza raffinata o fornito di un senso profondo delle conseguenze legate ai doveri quotidiani, e nemmeno molto atto ai suoi alti compiti. Ma i gentiluomini inetti devono pur vivere, e se non hanno fortuna personale, è difficile immaginare come possano vivere tutti decorosamente senza qualche incombenza scolastica o governativa. D'altronde, la colpa era tutta della struttura mentale di Tom. Se le sue facoltà non potevano nutrirsi di quel genere di istruzione che Mr. Stelling sapeva impartire. Un ragazzo venuto al mondo con scarsi poteri di comprendere i segni e le attrazioni deve portare la pena della sua deficienza congenita, come fosse nato con una gamba più corta dell'altra. Un metodo di educazione sancito dalla lunga pratica dei nostri venerabili antenati non poteva certo arrendersi davanti alla eccezionale stupidità di un ragazzo che viveva ai giorni di allora, e Mr. Stelling era convinto che un ragazzo così idiota di fronte ai segni e alle altre astrazioni doveva esserlo anche in tutte le altre cose, quasi che questo egregio reverendo gli avesse saputo insegnare qualcos'altro. Era nella pratica dei nostri venerabili antenati di usare quell'ingegnoso strumento che è il serrapollici e serrarlo per far sprizzare dei fatti inesistenti. Per cominciare, essi avevano la ferma opinione che i fatti esistessero e che potevano fare allora se non avvitare il serrapollici. In simil modo, Mr. Stelling aveva la ferma opinione che tutti i ragazzi di qualche capacità fossero in grado di imparare quelle cose che sole, a buona regola, dovevano essere insegnate. Se erano tardi, bisognava avvitare il serrapollici ed insistere sugli esercizi con crescente severità e minacciare, come punizione, una pagina di Virgilio per incoraggiare e stimolare un troppo tiepido amore per i versi latini. E non di meno, durante il secondo semestre, il serrapollici fu un pochino allentato. Philip era così avanti negli studi e così dotato che Mr. Stelling poteva facilmente farsi onore con lui, che abbisognava di pochi stimoli, meglio che col noioso sforzo di vincere la stupidità di Tom. I gentiluomini di largo petto e di ambiziosi intenti deludono qualche volta i loro amici perché non riescono a travolgere tutte le difficoltà sul loro cammino. E è che i grandi successi richiedono forse qualche dote non comune, oltre che un non comune desiderio di grandi ricompense. O forse quei gentiluomini ben piantati sono alquanto indolenti, dato che il loro divine particulum auree è tarpato nel suo volo da un troppo cordiale appetito. Fosse l'una o l'altra ragione, Mr. Stelling rinviava l'esecuzione di parecchi focosi progetti. Nelle ore di libertà non metteva mano all'edizione della sua tragedia greca né ad altri lavori letterari. Anzi, dopo di essersi molto risolutamente chiuso a chiave nel suo studio privato, si sedeva poi davanti a un romanzo di Theodore Hook. Poco a poco Tom, sotto una sorveglianza sempre meno rigorosa, poté prendere sotto gamba le lezioni, mentre, con l'aiuto di Philip, gli riusciva di far credere ad una certa applicazione confusa e grossolana, senza che un interrogatorio più approfondito dimostrasse quanto la sua intelligenza fosse rimasta del tutto passiva. In queste circostanze così modificate, la scuola gli parve più sopportabile, e tirava avanti abbastanza soddisfatto, accattando qua e là una specie di educazione, formata soprattutto di elementi che non erano affatto di spettanza della sua educazione. Quello che si intendeva per educazione di Tom era semplicemente la pratica del leggere, dello scrivere, dell'ortografia, ottenuta mediante un'elaborata applicazione di idee incomprensibili, e molti insuccessi nello sforzo di imparare meccanicamente. E tuttavia, sottoposto a questa disciplina, Tom mostrava visibilmente di progredire, forse perché non era un ragazzo in astratto, esistente solo per provare i danni di un'educazione sbagliata, bensì un ragazzo di carne ed ossa, con certe sue disposizioni, non del tutto alla mercé delle circostanze. C'era, per esempio, un gran progresso nel suo contegno, del qual punto parecchio merito spettava a Mr. Poulter, il maestro del villaggio, che come vecchio soldato della penisola era stato chiamato ad addestrare Tom, il che costituiva fonte di alta e reciproca soddisfazione. Mr. Poulter, che dagli avventori del Cigno Nero era ritenuto aver seminato altre volte il terrore nei cuori dei francesi, non era ormai più un personaggio temibile. D'aspetto alquanto abbacchiato, tremava un poco al mattino, non già per gli anni, ma per la cattiveria dei ragazzi di King's Lorton, così estrema che soltanto il gin gli dava la forza di sopportarla con una certa fermezza. Tuttavia, egli si teneva marzialmente diritto, i suoi abiti erano spazzolati con cura, i calzoni ben stretti alla cintola, e nei pomeriggi del mercoledì e del sabato, quando veniva da Tom, era sempre ispirato dal gin e dagli antichi ricordi che gli davano un'aria eccezionalmente viva, come un annoso cavallo di guerra che oda il rullo del tamburo. Le lezioni di ginnastica erano sempre prolungate dal racconto di episodi guerreschi, molto più interessanti per Tom delle storie che Philip estraeva dall'Iliade, perché nell'Iliade non c'erano cannoni e inoltre Tom aveva provato un certo disgusto nell'apprendere che Ettore e Achille potevano anche non essere esistiti. Mentre invece il duca di Wellington era realmente vivo e Bonaparte non era morto da tanto tempo, perciò i ricordi di Mr. Poulter sulle guerre della penisola erano liberi da ogni sospetto di essere pure fiabe. Mr. Poulter, secondo pareva, era stato una figura importante a Talavera ed aveva contribuito non poco allo speciale terrore che il suo reggimento di fanteria incuteva al nemico. Ma i pomeriggi in cui la sua memoria era più del solito eccitata, egli si ricordava che il duca di Wellington, in forma strettamente privata, altrimenti sarebbero sorte delle gelosie, aveva manifestato la propria stima per il bravo Poulter. Perfino il chirurgo che l'aveva curato all'ospedale, quando gli era toccata la sua ferita d'arma da fuoco, era rimasto profondamente impressionato delle qualità superiori dei tessuti di Mr. Poulter. Nessun altro tessuto si sarebbe rimarginato in così poco tempo. Su argomenti meno personali, connessi con l'importante campagna in cui aveva prestato servizio, Mr. Poulter mostrava maggior riserbo, prendendo cura soltanto di non conferire il peso della propria autorità a qualche infondata opinione concernente la storia militare. Chiunque pretendesse di saperla lunga su ciò che era accaduto all'assedio di Badajoz era, per Mr. Poulter, oggetto di silenzioso dispregio. Fosse stato travolto come era toccato a lui quel chiacchierone e si fosse sentito fiaccare il respiro alla prima carica, ne avrebbe potuto parlare allora dell'assedio di Badajoz. Tom a volte non poteva meno di irritare il suo istruttore con la sua curiosità su altri argomenti militari, al di fuori dell'esperienza personale di Mr. Poulter. E il generale Wolfe, Mr. Poulter, non era un magnifico combattente? Diceva Tom che si ostinava nell'idea che tutti gli eroi militari celebrati dalle insegne delle osterie avessero partecipato alle guerre contro Bonaparte. Puah! Niente affatto, rispondeva con disprezzo Mr. Poulter. Nemmeno per idea. No, no, meglio di non parlarne nemmeno del generale Wolfe. Non ha saputo fare altro che morire della propria ferita, che è una ben povera azione, mi pare. Qualunque altro uomo sarebbe morto delle ferite che mi sono buscate io. Una delle mie sciabolate l'avrebbe accoppato un individuo come il generale Wolfe. Mister Poulter, diceva Tom ogni volta che quello nominava la sciabola, vorrei che portaste la vostra sciabola e mi faceste gli esercizi. Per parecchio tempo Mister Poulter si contentò di scuotere significativamente il capo ad una simile richiesta e di sorridere con aria di protezione, come deve avere fatto Giove quando Semele insisteva nella sua troppo ambiziosa pretesa. Ma un pomeriggio, in cui un improvviso rovescio di pioggia aveva trattenuto Mr. Poulter al cigno nero una ventina di minuti più del solito, la sciabola fu portata, tanto perché Tom la vedesse. E questa è proprio la sciabola con cui avete combattuto in tutte le vostre battaglie, Mr. Poulter? Diceva Tom toccandone l'elsa. Ha mai tagliato una testa di francese? Una? Ma tre gliene tagliava, le avessi avute. Però avevate anche un fucile e una baionetta, no? Diceva Tom. Oh, mi piacerebbe di più il fucile con la baionetta, perché prima si può colpire la gente e poi trafiggerla. Pum, pum, pss! E Tom eseguiva la congrua pantomima per indicare il doppio piacere di premere il grilletto e di vibrare la lama. Già, ma la sciabola ci vuole quando si viene al corpo a corpo, disse Mr. Poulter, lasciandosi trascinare involontariamente dall'entusiasmo di Tom e sguainando la spada in modo così subitaneo che Tom balzò indietro con molta agilità. Oh, ma, Mr. Poulter, se volete tirar di scherma, disse Tom, un po' vergognoso di non aver tenuto il terreno come si conveniva un inglese, lasciate che vada a chiamare Philip. Avrebbe piacere di vedervi, sapete? Come? Ragazzo gobbo, disse Mr. Poulter con disprezzo, che bisogno c'è che veda? Oh, ma in fatto di guerra lui sa un monte di cose, disse Tom. E come si combatteva con gli archi e le frecce e le asce d'arme? Fatelo venire, allora, gli mostrerò io qualcosa di diverso dai suoi archi e dalle sue frecce, disse Mr. Poulter, tossendo e raddrizzandosi mentre eseguiva qualche piccolo movimento preparatorio del polso. Tom si precipitò da Philip, che nel salotto trascorreva il suo pomeriggio di vacanze al pianoforte, ricercando delle melodie e cantandosele. Era perfettamente felice, appollaiato sull'alto sgabello, come una massa informe col capo arrovesciato all'indietro, gli occhi fissi sulla cornice che gli stava di fronte e le labbra spalancate, emettendo con tutta la sua forza delle sillabe improvvise su una melodia di Arn che gli aveva eccitato la fantasia. «Vieni, Philip!» disse Tom, giungendo con un balzo. «Cosa rimani lì a gridare là, là? Vieni a vedere il vecchio Poulter che fa gli esercizi di sciabola giù in rimessa!» Questa urtante interruzione, il disaccordo delle note di Tom con quelle di cui Philip stava vibrando corpo ed anima, sarebbero stati sufficienti ad indisporlo, anche se non si fosse trattato di Poulter, il maestro d'armi. Tom, nella furia di trovare qualcosa da dire, perché Mr. Poulter non pensasse che gli aveva avuto paura della sciabola quando era fuggito davanti ad essa, s'era appigliato alla proposta di andare a chiamare Philip, pur sapendo benissimo che Philip non poteva soffrire di sentirlo parlare delle sue lezioni di scherma. Tom non avrebbe mai fatto una cosa così sconsigliata se non sotto l'ineluttabile impulso del suo orgoglio personale. Nel cessare di suonare, Philip tremava visibilmente, poi, arrossendo, disse con violenta collera: «Vattene, pezzo di idiota! Non venire a vociferarmi negli orecchi, te che non sei capace di parlare altro che ai cavalli da tiro!» Non era la prima volta che Philip era uscito dai gangheri con lui, ma Tom non era stato mai prima di allora assalito con proiettili verbali che gli capisse così bene. «Son capace di parlare di qualcosa che val più di te, povero diavolaccio rammollito», disse Tom infiammandosi al fuoco di Philip. «Sai che non te lo poso perché vali meno di una ragazzina, ma io sono figlio di un galantuomo, mentre tuo padre è un furfante, lo dicono tutti.